tylko nie umie komunikację. Co tego da robi wytucza tego stypeczu? Czarna bruta fama, mafia metropolitana, estetira bruta aria, bici bruti mezzo. Rischio misto, vari crostelle Milano. Nel giro col jetel, nel set ti sembro stanco. Poi parto con rumi, vola fianco qualcos'altro. Diluiamo il tutto con del bosso con d'arancio. Buona e fata, sono già con top puntino. Ma senti proprio ora c'è odore da rosmarino. Vieni un poco qua, non interrompere sto giro. Vieni un poco qua, fratello, fatti un tiro. Tanto per cambiare anche stasera sono fuori. Braga, campana, capelli lunghi e spari fiori. Con le braga, campana, capelli lunghi e spari fiori. Tanto per cambiare anche stasera sono fuori. Le giro con i miei uomini e con i miei uomini cazzeggio. Vengo da Rovigo e tu già prego sti peggio. Ora sto a Milano e qui è veramente peggio. Ma vengo da Rovigo e con i miei uomini cazzeggio. Tanto per cambiare anche stasera sono fuori. Braga, campana, capelli lunghi e spari fiori. Tutti parlano, ma io li sento zitti. Anni 70, sono un hippie. Capelli ce li ho a modi e sei il presidente. Per mia mamma sono bello e per gli altri un deficiente. Non giro per le strade con macchine di lusso. Per tirare a fine mese scorro come un musso. Bussa alla tua porta e dopo mi ci butto dentro. Grazie dell'invito e tutto di mio gradimento. Mangio, sbaffo, poi collasso. È un disastro, ma zitto troppo dentro. Tutta la tua famiglia è in piedi dallo sgomento. Ti chiede che è cretino con sto grande portamento. Ti prego non rispondere, devo stare attento. Fare a me, aspetta che mi presento. Tanto per cambiare anche stasera sono fuori. Braga, campana, capelli lunghi e spari fiori. Con le braga, campana, capelli lunghi e spari fiori. Tanto per cambiare anche stasera sono fuori. Le giro con i miei uomini e con i miei uomini cazzeggio. Vengo da Rovigo e tu già prego sti peggio. Ora sto a Milano e qui è veramente peggio. Ma vengo da Rovigo e con i miei uomini cazzeggio.